24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, eccoci qua di nuovo con 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Anche nello spazio d'economia parleremo del terremoto, l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, quando giustamente ci sono tragedie di questo tipo come quella avvenuta in Abruzzo, scatta la solidarietà del popolo italiano, che è una solidarietà sempre pronta. È vero. Di questo parliamo nello spazio. Sì, noi questa mattina vogliamo fare, adesso sistemo il microfono un attimo, mi sono un po' intrecciata stamattina, fare il punto sulla mobilitazione che si è avviata ieri dalle prime ore della giornata in termini di solidarietà economica per cercare di attivare immediatamente il canale di sostegno finanziario alle popolazioni terremotate. Sono ore drammatiche, non c'è bisogno che lo raccontiamo anche da qua, c'è bisogno di tutto e probabilmente anche da questi microfoni in questo momento non riusciremo a dare conto di tutte le iniziative che si sono attivate, ma almeno diamo i canali più grandi, i canali più importanti, e tra l'altro l'invito è proprio quello ad usare questi se si vuole contribuire. Cosa deve fare chi, non potendo aiutare con le proprie mani in queste ore, vuole farlo attraverso una donazione? Ieri, mentre eravamo in onda con la nostra lunga maratona dedicata all'emergenza drammatica che si è creata in Abruzzo, molti ascoltatori ci chiedevano, al di là di tutti i conti correnti che state dando, dateci anche un numero verde o un numero di telefono al quale fare delle donazioni attraverso il nostro telefono. E allora subito gli operatori di telefonia mobile TIM, Vodafone, Wind e Tre Italia, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, hanno attivato la numerazione solidale. Vi do il numero, è il 48580, per raccogliere fondi a favore della Abruzzo. Ogni sms inviato contribuirà con un euro, che sarà interamente devoluto al Dipartimento della Protezione Civile per il soccorso e l'assistenza. Il sistema è operativo dalle 23 di ieri sera. Dalle 9 di oggi sarà possibile invece donare 2 euro attraverso chiamata da rete fissa di Telecom Italia, utilizzando lo stesso numero 48580. Il Dipartimento della Protezione Civile fornirà tutte le indicazioni sull'utilizzo dei fondi raccolti. Si sono attivate tutte le banche, c'è anche la possibilità di devolvere denaro direttamente alla Croce Rossa Italiana. Noi, prima di darvi anche queste indicazioni, vorremmo invece sentire cosa sta facendo la Caritas. Ieri abbiamo intervistato il direttore di Caritas Italia, Don Vittorio Nozza. Oggi invece abbiamo con noi Don Andrea La Regina, che tra l'altro sta raggiungendo L'Aquila. Don Andrea, buongiorno. Ah, buongiorno. Allora, la Caritas nazionale si è attivata prestissimo ieri mattina attraverso una prima iniziativa della diocesi di Roma, poi estesa a tutta la Caritas italiana, per coordinare intanto gli sforzi della Caritas abruzzese e delle sezioni Caritas di tutta Italia per organizzare gli aiuti dopo il terremoto della notte scorsa in Abruzzo. Don Andrea, intanto che cosa sta facendo in questo momento? Sta raggiungendo L'Aquila per portare aiuto concreto, per fare che cosa? Con gli operatori di Caritas stiamo raggiungendo una parrocchia dove incontreremo il direttore della Caritas diocesana e alcuni operatori delle Caritas anche dell'Abruzzo, e con il delegato regionale, il vescovo incaricato per l'animazione alla carità abruzzese. Il tentativo è quello di fare un po' un inventario dei bisogni e delle difficoltà che si vivono in questo momento, per poi ipotizzare prossimamente la costituzione di un centro di coordinamento che possa fare da supporto alla realtà qui della, ecco, come potete capire, nello stesso tempo fare il coordinamento. Ecco, il collegamento infatti è piuttosto complicato, adesso cerchiamo di ripristinarlo con Don Andrea. Quindi si cerca intanto di fare un po' un monitoraggio della situazione, lo abbiamo detto, c'è bisogno di tutto in queste ore drammatiche, però si cerca anche di portare l'aiuto in maniera coordinata, perché altrimenti portarlo in maniera disordinata non ha nessuna utilità. Allora, intanto che ripristiniamo il collegamento con Don Andrea La Regina, vi ricordo che per sostenere gli interventi attraverso la Caritas si possono inviare offerte attraverso diverse banche che la Caritas ha attivato. La prima, quella attivata ieri mattina, è stata Unicredit Banca di Roma. Si possono inviare offerte anche attraverso Intesa San Paolo, Allianz Bank, Banca Popolare Etica, e poi anche attraverso le carte di credito Cartasì e Diners Italia. Per quello che riguarda invece le altre modalità per poter fornire aiuto economico alle popolazioni terremotate, vi do anche i canali intanto attivati dalla Croce Rossa. Si possono effettuare donazioni alla Croce Rossa Italiana utilizzando i seguenti sistemi. C'è un conto corrente bancario che è stato attivato presso la Banca Nazionale del Lavoro, c'è un conto corrente postale, si possono effettuare delle donazioni anche online attraverso il sito web della Croce Rossa Italiana attraverso l'indirizzo www.cri.it/donazioni. Le banche, lo abbiamo detto, una prima banca, Unicredit, si è attivata in diretta correlazione appunto con la Caritas, c'è poi un altro conto corrente indipendente, c'è una raccolta fondi che è stata avviata dal gruppo Monte dei Paschi, il gruppo Intesa San Paolo ha aperto 3 conti correnti per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto, sono conti correnti intestati, il primo ha un aiuto subito terremoto dell'Abruzzo promosso dal Corriere della Sera Gazzetta dello Sport, c'è poi l'iniziativa coordinata da Intesa San Paolo con la Onlus di Mediaset che è Media Friends e poi come dicevo c'è anche l'iniziativa appunto con la Caritas. Un conto corrente è stato aperto anche da Banca Mediolanum sul quale sarà possibile convogliare gli aiuti e poi c'è anche il conto corrente, questo è molto importante, che è stato attivato attraverso un'iniziativa di Poste Italiane su richiesta della Regione Abruzzo. Vi diamo questo numero di conto corrente attraverso le Poste Italiane perché non è un IBAN lunghissimo, quindi lo possiamo facilmente dare e magari è facilmente anche così ricordabile da parte di tutti, 10 40 00 00, quindi questo è il conto corrente attivato dalle Poste Italiane su richiesta della Regione Abruzzo, i sottoscrittori possono versare i loro contributi in tutti i 14.000 uffici postali attraverso bollettino di conto corrente postale o direttamente online. Non riusciamo a ripristinare il collegamento con Don Andrea, però insomma le iniziative sono molte, Alessandro. No, ma tra l'altro Deborah, io credo che poi, visto che abbiamo dato tantissimi conti, tantissime possibilità, voi potete anche scriverci una mail, come di consueto noi siamo un punto di riferimento, se scrivete a noi 24mattino@radio24.it magari non avete avuto modo di scrivere tutti i conti, avere informazioni in più, vi rispondiamo con una mail così avete tutto bene lì davanti. C'è da dire, Deborah, in conclusione che ci sono molti ascoltatori che propongono l'8 per 1000 per i terremotati, sì. Insomma, adesso magari forse tipo. Per forse quest'anno per è anche un po' difficile predisporlo, sì, in tempi rapidi, però un'ultima non cosa... Non tanto, immagino che anche dal punto legislativo insomma sia esatto. Una questione anche complicata. No, abbiamo ma già diciamo parlato della questione sono... dei 5 per 1000 e tutte le onlus che attendono quei fondi là esatto. Già da 3 anni, figuriamoci se adesso in 2 giorni riusciamo a devolverli per la arriverebbero tra diversi anni. Guarda, l'unica cosa che ci tenevo a ricordare l'iniziativa di Libero, Alessandro, del quotidiano Libero, che ha invece attivato una sottoscrizione per aiutare i bambini rimasti senza papà o senza mamma dopo il terremoto, una sottoscrizione che si può fare presso la Banca Popolare Commercio e Industria, la trovate sulla prima pagina di Libero questa mattina, quindi anche questa mi sembrava molto... Sì, diciamo che le iniziative sono davvero tante, molteplici, sì. come è giusto che sia, e quindi ci sarà modo per tutti, per chiunque voglia dare una mano anche concreta, di poterlo fare. Deborah, io ti ringrazio. Grazie a voi. Noi ovviamente torneremo tra poco e parleremo fino alle 9 di questa tragedia che ha colpito l'Abruzzo, lo farà anche Giuliano Ferrara, quindi andremo continuamente ad aggiornarvi. Tu invece poi torni alle 12 con Salvadanaio. Torno alle 12, sì, tra l'altro noi oggi avevamo in mente di parlare di come si costruisce una casa secondo criteri di ecosostenibilità, ma ovviamente non mancheremo di sentire interpellare i nostri esperti anche su quello che è successo in Abruzzo, se anche il criterio della ecosostenibilità che oggi va molto di moda si sposa con i criteri antisismici. Anche perché oggi il Sole 24 lo spiega bene, le regole antisismiche ci sono e vengono prorogate di anno in anno e non entrano mai in vigore. Anche questa è una storia dell'Italia da raccontare. Le 8:32 minuti, eccoci di nuovo qui per parlare del terremoto. Prima diamo però uno sguardo a quelle che sono le altre notizie in primo piano, a parte il terremoto in Abruzzo di cui parleremo approfonditamente tra poco ovviamente. Gli Stati Uniti non sono e non saranno mai in guerra con l'Islam, dice il presidente americano Obama dalla Turchia. I rapporti tra il mondo musulmano e l'America, ha aggiunto Obama, non possono essere basati solo sull'opposizione ad Al-Qaeda. In Italia ieri si è aperto il processo contro l'Eternit, la multinazionale accusata di avere causato migliaia di morti con l'amianto. 270 le parti civili, quasi 3.000 le parti lese, per il più grande processo mai celebrato in Europa per morti sul lavoro. L'INAIL ha già chiesto un risarcimento di 246 milioni di euro, importo già versato alle vittime d'amianto. Infine una notizia di calcio che viene dal Brasile: l'attaccante dell'Inter Adriano rientrerà in Italia la prossima settimana, lo ha assicurato il suo agente, affermando che il calciatore ha alcuni problemi particolari ma non legati alla droga. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Io voglio salutare Giuseppe Zamberletti, presidente, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Zamberletti è stato ministro, oggi è presidente del Comitato Grandi Sismi della Protezione Civile, è stato però il commissario straordinario per l'emergenza terremoto in Friuli, in Irpinia e Basilicata. Insomma, un uomo che con i problemi, con le grandi tragedie ha avuto a che fare quotidianamente. Presidente Zamberletti, io innanzitutto le chiedo, è stata una notte ovviamente in cui non si è cessato un solo secondo di scavare, si continua a scavare. Alle 2 di questa notte è stata trovata una ragazza che è stata 24 ore sotto le macerie, è stata tratta in salvo. Purtroppo invece a volte si trovano delle persone senza vita che vengono estratte dalle macerie. È ancora importante cosa si può fare in questo momento, cosa possono fare coloro che sono sul campo e che possibilità c'è di trovare ancora persone in vita? Ma le possibilità ci sono, perché noi abbiamo dall'esperienza tratto già un insegnamento, che addirittura a quasi 2 settimane dall'evento siamo stati in grado di recuperare delle persone vive dalle macerie. Però bisogna accelerare al massimo i tempi, come è chiaro, e quindi queste ore devono essere dedicate a una strenua azione per recuperare tutte le vite che sono recuperabili. Ogni minuto guadagnato può essere una vita salvata, e quindi tutta l'azione deve essere portata, l'azione dei soccorritori deve essere portata a individuare, perché ci sono due cose da fare: scavare per trovare, ma anche attraverso le notizie che si colgono sul luogo, come si fa normalmente, a individuare i luoghi dove si ritiene o si sa che ci sono probabilmente persone sotto le macerie. Senta, tra l'altro assistito e assistiamo dall'Italia, anche tutta la gente che ci chiama, ci manda messaggi manifestando la volontà di voler aiutare, voler fare qualcosa di concreto. Non c'è il rischio di, lo so che dico una brutta parola, esagerare, cioè che cosa serve e che cosa invece è francamente anche inutile? Bisogna essere pragmatici in queste situazioni. Ecco, intanto gli aiuti sono importanti, l'importante è che siano bene organizzati. Infatti anche questa volta, secondo una tradizione che abbiamo cominciato in Friuli nel 76, si sviluppa un'azione che vede le regioni associare le forze presenti sul territorio, disponibili e utili per dare un contributo in questa fase, nelle fasi successive dell'emergenza, per convogliarle in perfetto coordinamento con il commissario nominato e con la struttura commissariale emanata dal sistema di protezione civile. Quindi in realtà le colonne mobili che già le regioni hanno organizzato e che organizzano sono colonne mobili studiate e preparate per raccogliere i contributi locali e convogliarli in modo ordinato sul territorio, anche per quanto riguarda la localizzazione sul territorio, come distribuirsi sul territorio. Allora si adottò un termine che è diventato abbastanza abituale in questa emergenza, quella dei gemellaggi di regioni con le province e i comuni italiane, con le comunità o comuni colpiti dall'evento, in modo da distribuire ordinatamente il soccorso e far giungere le cose che veramente servono. Perché certamente si può morire di confusione anche in queste cose, quindi ci sono questi pericoli, ma ormai il sistema di protezione civile è ben collaudato, perché purtroppo, ahimè, il nostro è un paese che ha conosciuto grandi emergenze di questo tipo, per ordinare molto bene il sistema del soccorso. Quello che non serve è l'iniziativa individuale, cioè l'individuo, anche per quanto riguarda il volontariato. Sì, il volontariato sì. è utile, ma il volontariato organizzato. Certo, se no può essere addirittura più dannosa rispetto. Certo, infatti ai tempi, quando ancora la protezione civile non aveva costituita, il rischio era l'afflusso di persone non autosufficienti e quindi non autosufficienti in termini logistici, non abituate a lavorare in squadra, non coordinate dall'organizzazione complessiva e quindi di creare un ulteriore appesantimento all'organizzazione del soccorso. Senta, Presidente Zamberletti, ci sono però alcuni punti che lei già tra l'altro ha chiarito, credo, in alcuni interventi ieri. Per esempio, siamo un paese di fatalisti ed insensibili. Noi siamo un paese sismico dove la cultura antisismica davvero non esiste. Lei per esempio ha raccontato che in Abruzzo negli anni 80, proprio in Abruzzo, quando ci fu un precedente terremoto, fu messa una legge per ricostruire tutti gli immobili con gli adeguamenti antisismici, contributi con accesso a mutui, tasso zero. Numero di richieste arrivate? Numero di richieste arrivate pochissime, 3 o 4, ma devo dire di più, che poi quelle richieste tendevano a non a rendere antisismica la casa, ma eventualmente approfittare del mutuo a tasso zero per garantina e così via. Comunque richieste reali di adeguamento antisismico, non dimentichiamo che io allora avevo proposto, si proponeva nella legge l'adeguamento antisismico delle case che non erano state danneggiate, perché quelle danneggiate beneficiavano dei contributi per la riparazione, ma proprio per prepararle al terremoto successivo. Quindi avevamo detto, essendo una zona sismica, i cittadini che intendono approfittare di questo aiuto dello Stato, cioè di mutui a tasso zero, quindi con a carico dello Stato il costo del denaro che veniva dato al cittadino, possono beneficiarne e quindi preparare la loro casa perché non ceda al prossimo terremoto. Eppure zero. Cioè il risultato. E vede che io leggo anche oggi il Sole 24 Ore, forse l'ha già avuto modo di leggerlo. Regole antisisma congelate al 2005, l'abbiamo sentita anche in rassegna stampa, di proroga in proroga, di terremoto in terremoto, non sono ancora entrate in vigore. Dal settembre 2005 sono state fatte, l'ultima proroga proprio del governo Berlusconi si rinvia addirittura tutto al 30 giugno 2010. Cioè non c'è una cultura, forse neanche nelle istituzioni antisismiche. Ma le dirò che in realtà poi le istituzioni sono l'immagine speculare del paese. Se nel paese non c'è una cultura della prevenzione, è difficile che poi anche le istituzioni camminino passo veloce in questa direzione. Anche se devo dire che anzi le istituzioni hanno sempre cercato di fare di tutto per agevolare e spingere nella direzione di una politica di prevenzione. Tuttavia dobbiamo dire che in realtà il recepimento di questo obiettivo da parte dell'opinione pubblica è piuttosto scarso. Le faccio un esempio, sì. Noi da tempo, da quando è nata la protezione civile, proponiamo di introdurre anche in Italia, ci sono in tutti i paesi civili del mondo occidentale, delle forme di assicurazione contro le catastrofi, no? Qual è il vantaggio? Tanto dobbiamo caricare sul costo dello Stato tutti i costi delle ricostruzioni. Ma la cosa più importante è che fa scattare una cultura della prevenzione, perché è chiaro che se io assicuro il mio edificio devo essere certo, per poter ottenere condizioni buone, che l'edificio sia messo a norma dal punto di vista antisismico. Ma per esempio, perché non c'è l'obbligo per legge nelle zone sismiche di costruire con ricostruire? No, c'è l'obbligo. C'è l'obbligo. No. Il problema sono le costruzioni che già ci sono. Solo il costruire, non dimentichiamo che ognuno di noi abita in una casa già costruita. Certo, no, infatti è l'adeguamento. Le nuove in costruzione vanno e hanno effettivamente sono soggette ad una normativa rigorosa. E si dice una cosa importante, ma rappresenta una piccolissima percentuale della popolazione, cioè i nuovi insediamenti, no, le nuove case. Presidente, nel ringraziarla e nel salutarla, ieri l'ex sottosegretario Barbene, insomma anche lui della Commissione Grandi Rischi, ha detto lo so che fa male dirlo, ma in California un terremoto del genere avrebbe causato 0 vittime. Ha ragione, Barbene ha ragione. Barbene, che è stato con me fra gli organizzatori della nuova protezione civile italiana, sa benissimo la frase che noi alla Commissione Centrale Grandi Rischi avevamo già adottato dall'inizio: l'Italia ha piccoli terremoti e pessime case. Dico pessime case non dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista della loro resistenza alla della loro vulnerabilità. Noi abbiamo un patrimonio edilizio estremamente vulnerabile in zone a rischio sismico, e quindi questo è certo. la maledizione che ci portiamo dietro e contro la quale dobbiamo seriamente lottare. Presidente Zamberletti, la ringrazio. Giuseppe Zamberletti, lo ricordiamo, il padre della Protezione Civile, ex commissario straordinario per i terremoti in Irpinia, in Friuli. Grazie per essere stato con noi, e tra l'altro io voglio andare proprio in Abruzzo, nel cuore insomma della tragedia. C'è il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno, eccoci qua, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Avete passato ovviamente la prima notte, dove ti trovi e con chi ti trovi? Sì, mi trovo qui nella tendopoli, chiamiamola così, di Piazza d'Armi, che è la più importante dell'Aquila. La notte è stata fredda, umida, ieri sera ha piovuto, grandinato, per cui le tende sono posizionate su un prato, immaginiamo quindi l'umidità che hanno potuto assorbire purtroppo chi ha passato la notte in questa tendopoli, circa 1000 abitanti dell'Aquila. Accanto a me ho due gentilissimi cittadini dell'Aquila, due ragazzi che in pratica Alfredo mi diceva poco fa da questo dramma ha perso tutto. Alfredo? Sì, praticamente mi sono salvato per miracolo, la casa è completamente crollata, ho avuto appena il tempo di scappare senza poter prendere niente, cellulare, chiavi di casa, niente praticamente. E oggi siamo qua, abbiamo trascorso pure la notte, ma senza chiudere occhio praticamente, perché la temperatura fuori era di 4 gradi. Possiamo immaginare dormire su un prato con 4 gradi fuori all'aperto, non si è riuscito a chiudere occhio, addirittura sembra che anche una signora sia morta in conseguenza per assideramento, per il freddo che c'era stanotte qua, umido, freddo. Ecco Alfredo, quello che mi dicevi poco fa, la cosa più grave al momento è non avere una prospettiva, in questo caso una casa, uno studente dice il mio lavoro, non so quanto dovrò rimanere in questa tenda. Sì, infatti sono uno studente universitario e non so l'università che fine farà, quindi ho perso una casa, per fortuna la famiglia no, quindi ci affidiamo alle mani forse del Signore, non so di chi, senza speranza però, perché alla fine è veramente tragica, apocalittica la situazione, non c'è via d'uscita. Ecco, Ilaria, un tuo giudizio su come sono stati i primi aiuti che avete avuto da ieri notte, dal momento del dramma? Sicuramente sono stati tempestivi, su questo insomma non ci si può lamentare, anzi non credevamo fosse così, si sono ben organizzati, hanno dato da mangiare 24 ore su 24, non ci hanno diciamo fatto mancare nulla, quindi di questo proprio nessuna cosa da ridire insomma. Ecco, la tua casa? La mia casa fortunatamente non è crollata, a differenza di altre che sono proprio crollate interamente, è una delle poche che è rimasta in piedi nonostante comunque ci siano delle crepe, cose cadute, mobili dagli scaffali, però sperando che si può raggiustare insomma. Ecco Alessandro, quello che vorrei far capire ai nostri ascoltatori è la difficoltà di chi si trova fino ad un giorno ad abitare in case come tutti noi e da un momento all'altro non avere più la propria disponibilità, le proprie cose, la propria anche intimità. Immaginiamo 1000 persone stipate nelle tende, quindi ecco vorrei chiedere come avete vissuto queste prime ore in queste tende? È bruttissimo, perché la paura resta, le scosse ci sono ancora e quindi non si riesce proprio a dormire, per di più perché la prima scossa, quella forte, è stata di notte, quindi ti svegli di soprassalto ogni volta e senti ogni minimo movimento e anche quelli che in realtà non ci sono perché tremi tu, quindi è bruttissimo comunque. Ecco Alfredo, per concludere questo nostro collegamento, comunque la giornata oggi c'è un bel sole. Riesci a trovare dentro di te un minimo di ottimismo per il futuro? Ma è difficile in questi momenti trovare un minimo di ottimismo, ma purtroppo la vita va avanti, speriamo nell'aiuto del mondo, dell'Italia e quindi la solidarietà delle persone, che ci stiano vicine, non ci abbandonino e si va avanti, vediamo se si trova una sistemazione migliore di queste tende, magari ci spostiamo sulla costa visto che gli alberghi ci ospitano gratuitamente e poi ormai ci resta vivere solo alla giornata, non possiamo fare programmi futuri e niente di più insomma. Alessandro, c'è qualche domanda? Sì, no, c'è grande ovviamente apprensione, più che altro magari Vincenzo, adesso dobbiamo dare le informazioni sul traffico, se vogliamo verificare anche la notizia che ti ha dato in apertura il tuo ospite, che parla di una possibile addirittura morte per assideramento di una signora lì al campo, insomma voglio sperare che non sia così, ma insomma la dimostrazione che la situazione è davvero difficile. Allora, l'ultima parte di 24 Mattino, ma l'informazione sul terremoto in Abruzzo continuerà anche poi con Giuliano Ferrara. Parliamo con l'elefante. Tra l'altro, io devo dire, ci arrivano molte segnalazioni riguardanti il 48580, il numero che abbiamo dato per gli sms di un euro. Cioè, molti dicono il numero è inesistente. Effettivamente abbiamo verificato. Allora, l'sms si può mandare tranquillamente. Pare che da alcune zone d'Italia, chiamando, cioè se si chiama il numero di telefono, dia inesistente. Ce lo segnalano anche alcuni sms, per esempio un ascoltatore poco fa, credo da Bergamo, ci ha mandato un messaggio. Diciamo che però l'sms funziona, questo però lo verifichiamo, speriamo ovviamente che sia effettivamente un servizio, poi visto che tutti vogliono accedervi, che funzioni al 100%. Registriamo questo perché ci arrivano chiamate al centralino segnalando questa cosa e dunque è vero. Io voglio salutare Ivano Benvenuti, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, era le 21.06 del 6 maggio 1976. Lei era il sindaco di Gemona all'epoca, Gemona in Friuli, una delle zone più colpite dal terremoto. Poco fa, non so se ha sentito, avevamo Giuseppe Zamberletti, che probabilmente conoscerà perché era il commissario straordinario allora. Lei era il sindaco di quella Gemona colpita. È inevitabile, le chiedo, insomma, di questa ferita che immagino avrà sentito anche la scorsa notte. Sì, sì, è una cosa drammatica, perché ha colpito una città, in particolare L'Aquila, al di là dei dintorni o delle comunità più piccole, con danni molto, molto ingenti, almeno da quello che ho potuto vedere attraverso le immagini televisive e seguire la vostra radio. Certo. Senta, ancora oggi però il ricordo di come venne gestito quel post-terremoto, passata la tragedia, queste sono le ore più difficili, ma il dopo, la ricostruzione del Friuli ha portato a esempio di come anche la popolazione, insomma, si rimboccò le maniche, si dice, sì, si dette da fare. Ecco, guardando quelle immagini ho ricostruito tutto il percorso, la mia memoria storica di quei momenti. Ecco, una premessa che è doverosa, devo dare atto oggi al, diciamo, fra virgolette, al perfezionismo che ha raggiunto la Protezione Civile nell'essere presente. Ricordo che la Protezione Civile, l'organizzazione, l'idea e poi l'approvazione da parte del Parlamento della legge nasce proprio dall'esperienza del Friuli. Noi allora avevamo come risorse di prima emergenza solamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e soprattutto i militari che erano qui in Friuli, c'erano moltissime caserme, essendo in questa zona di nord-est dove ancora c'era il muro di Berlino che divideva ideologicamente le realtà. Con questa premessa da parte nostra, da parte mia, quella che è stata la prima esigenza è quella di dare una assistenza, una risposta alle persone colpite, chi negli affetti più cari, chi era rimasto ferito e trovare una sistemazione adeguata per i giorni a venire. No, perché lei sa, la chiamo sindaco, se ancora sì. Sa che insomma la ricostruzione, e ne è piena la storia anche dell'Italia, di ancora ex terremotati che vivono ancora nelle baracche, che non hanno ancora una casa a distanza di 10, 15, 20 anni. Io le posso portare l'esempio, certo, del mio Friuli, della mia città. I tempi medi per una realizzazione, diciamo, quasi compiuta, almeno nelle strutture edilizie, nelle urbanizzazioni e nella ricomposizione di un tessuto urbano, ci vogliono almeno 10 anni. Ecco, avendo comunque a disposizione anche le risorse finanziarie da parte dello Stato, che è stato anche generoso nei confronti del Friuli, va riconosciuto, oltre a tutta la solidarietà, ma soprattutto la nostra carta vincente è stata l'autogestione di queste risorse, cioè la delega da parte prima dello Stato alla Regione, dalla Regione ai comuni, di quelle che erano le risorse per affrontare la ricostruzione vera. Allora, io la ringrazio, Ivano, benvenuti. Insomma, immagino che ci sia la solidarietà, anche la vicinanza per chi ha ancora porta su di sé nei ricordi, se non altro la ferita, insomma, di quello che fu il terremoto. Ex sindaco di Gemona, voglio ricordare. Noi invece in questo saltellare qui e là ritorniamo in Abruzzo, precisamente a Rocca di Mezzo, dove ne saluto il sindaco Emilio Nusca. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Credo che a Rocca di Mezzo, così mi segnalano Alessandro Marco Tulli dalla redazione, lei ci ha detto che il 40% degli edifici sono lesionati, quasi uno su due. Tra l'altro lei è ingegnere edile, se non sbaglio. Perché sa, avrà visto anche, insomma, la questione, le polemiche anche che ci sono su dire ma com'è possibile, l'ex sottosegretario Barberi che ha detto un terremoto del genere in California non avrebbe provocato un morto. Ma io purtroppo non ho avuto il tempo di seguire le polemiche in televisione. Io ho visto un po' qui la situazione com'è, sto vivendo in prima persona l'organizzazione dei primi soccorsi alla gente, che noi per fortuna nel nostro comune non abbiamo avuto nessun morto, nessun ferito, però abbiamo gente anziana che è malata e abbiamo, come diceva anche lei, il 40% degli edifici che così da un primo esame fatto ieri, quindi il giorno dopo il sisma, con i vigili del fuoco, da un esame anche un po' forse frettoloso eccetera, ci sono molti edifici che sono lesionati, non sono agibili. Adesso con la protezione civile abbiamo avuto una riunione ieri sera ad Aquila e manderanno su dei tecnici per approfondire bene nel dettaglio questi aspetti statici strutturali sui edifici, vedremo e avremo una mappatura più precisa della situazione. I soccorsi sono arrivati, cioè ci sono le tende per tutti, so che ne stanno ancora arrivando. In questi istanti stanno arrivando delle tende a noi che provvederemo a dare anche agli altri paesi, a Rocca di Cambio, a Vindoli, alle frazioni del comune di Rocca di Mezzo. No, diciamo che i soccorsi sono stati immediati, diciamo così, almeno sotto il profilo psicologico. Poi molti abbiamo fatto noi, abbiamo fatto con il volontariato, abbiamo fatto con la Croce Rossa, abbiamo fatto con l'Eproloco, abbiamo fatto con le strutture che già esistono sul territorio e che con le quali facciamo tante altre cose. Però diciamo che la protezione civile e la prefettura ci hanno mandato subito un supporto. Dato una mano. Sì, allora, sindaco, io ringrazio anche lei, ma insomma noi continuiamo in questa informazione veramente aperta. Tra poco anche Giuliano Ferrara, io ringrazio Emilio Nusca, tra l'altro ad ogni punto ora ci saranno anche degli approfondimenti con GR più allargati. Possiamo allora forse svelare il mistero del 48580, questo è il numero di telefono al quale potete mandare sms, da rete fissa funzionerà dalle ore 9, ma questo ce l'aveva detto anche Deborah Rosciani, sempre precisa, c'era anche un po' sfuggito, molti ci dicevano non funziona, pare che funzioni dalle ore 9, sono le 8:57 minuti e dunque tra 3 minuti. Questo per la rete fissa, se volete chiamare. Se invece mandate un sms, questo è già attivo, 48580 da qualsiasi operatore di telefonia mobile per donare un euro per il terremoto, e dalle ore 9 anche da rete fissa potete chiamare. Grazie ad Alessandro Marco Tulli, Laura Marchesi, Carmelo Lauricella in regia, tra poco Giuliano Ferrara, e noi ci sentiamo domattina.